Ad alta voce, in collaborazione con l'Istituto Centrale per i Beni Sonori ed Audiovisivi. Alessandro Benvenuti legge Metello di Vasco Pratolini. E a notte alta, supino nel letto, con la moglie al suo fianco e libero sull'altro lato che si succhiava le dita nel sonno, Metello disse: «Davvero, come tutto ci deve venire a costar caro. Ho 30 anni e ne ho passate, eppure ci credi? Mi sembra di essere entrato soltanto ora nell'età della ragione». «Meno male», ella disse. «Perché ti pare che abbia sbagliato?» «No, no», ella disse. «Sono i casi della vita». L'accolse sul suo petto e l'abbracciava. Egli disse: «Si sarebbe così felici se intorno a noi tutto non sembrasse fatto apposta per farci disperare». «Non bisogna lasciarci si pigliare», ella ripeté. «Non si rimedia nulla con la disperazione». Era una notte afosa, e malgrado le finestre spalancate, i loro corpi nudi si scambiavano un velo di sudore. Egli le carezzò il mento. «Lo so», egli disse, «ma anche noi di persona si pencola proprio quando non si dovrebbe». Le rovesciò dolcemente il viso e la baciò sulla bocca. Ella sentiva sciogliersi dentro di sé una pena che improvvisamente le aveva fatto groppa alla gola. Egli si accorse che le lacrime le bagnavano il volto, rispettò il suo pianto, e piuttosto che del rimorso provò un sentimento di amorosa protezione. Le chiese: «È stata contenta del tuo lavoro, la Roini?» Ella fece, e infantilmente stropicciò il naso sul suo petto. Si congiunsero in silenzio, come erano abituati, dominando a denti stretti il loro spasimo per non destare il bambino, e non di meno con un trasporto, una gioia a lungo protratta e che da qualche tempo non conoscevano. Quindi, con la stessa naturalezza, sospinto dallo stato di perfezione e d'abbandono che succede all'amore, e complice l'oscurità, la luce della luna che si arrestava sul davanzale, come concludendo un discorso che non avevano mai nemmeno sfiorato, egli disse: «L'iniziativa è stata mia. Lei non c'ha nessuna colpa. Però me ne son subito pentito». Ersilia gli si strinse nuovamente al fianco, ora con la coscia come incollata per via del sudore sulla sua. «Ne sei proprio sicuro?» gli chiese. «Se tu vuoi si può anche venire a un chiarimento. A quest'ora è di già al mare. Quando torna? Quando torna, sembra andrà ad abitare in un'altra casa. No, non l'ha detta a me, l'ha detta alla Celeste, da finestra a finestra». «Ah!» egli esclamò. «Questo non me lo so spiegare». «E te lo spiegherò io», ella disse. «Ma domani. Ora dormi. Son 2 notti e 2 giorni che non riposi». «Non ho voluto farti un torto. È capitato come è capitato». «Me lo immagino». «Non te lo puoi immaginare. Soltanto non hai impegnato il cuore». «Lo spero», ella disse. «No, è la verità, devi essere sicura. Mi ci vorrà un po' di tempo». «Non è poi la fine del mondo». «Oh no, questo no. Ma potrebbe essere il principio». «Nemmeno». «Lo spero», ella ripeté. «Altrimenti non starei qui a parlarne». «Ma come hai fatto a capirlo tanto alla svelta?» egli sillabò. Si era già addormentato. Ella rimase desta, immobile, tra il marito e il bambino che entrambi, girandosi nel sonno, le avevano voltato le spalle. Presto fu l'alba, sentì il bacalaro che apriva lo stallaggio, e partire la prima diligenza, e arrivare il lattaio. Si alzò, mise il bricco e i soldi nel paniere, come ogni mattina. Ritirava la fune, quando i poliziotti sbucarono da via Michelangelo. Erano 3, e vennero a fermarsi davanti alla porta di strada. Ersilia li vide, e si sentì gelare il cuore. Nella medesima ora, come avevano arrestato Metello, avevano arrestato Giannotto e Corsiero e l'anarchico Friani, tutti componenti gruppi dei 21. Mancavano il decano e Renzoni Piccolo, già in pace con Dio e con la questura. gli imputavano di attentato e ribellione alla forza pubblica, istigazione alla sommossa e associazione a delinquere. Un'assurdità. E infatti li avrebbero assolti in istruttoria, ma dopo 6 mesi di carcere. 175 giorni, uno di seguito all'altro, passati alle murate. Così Metello trascorse lontano dalla famiglia il suo 30° compleanno e per la 2ª volta conobbe la prigione e per la 3ª volta, il mattino dell'arresto, entrò in una guardina, la stessa carbonaia nella quale era finito adolescente andando in cerca di Betto. Ci trovò dei ladruncoli che assomigliavano a quelli di allora, come il delegato siciliano, i piantoni, il cortile che si intravedeva dall'inferriata. Soltanto non c'era più Michela. E lui aveva l'età che in quel tempo doveva avere Chellini. Ma dove delle finestre danno su un cortile, anche se a livello vi si apre la bocca di lupo di una carbonaia, non può mancare una ragazza che canta da mattina a sera. È bella, è onesta, è sana. Questa cantava una canzone anche più antica, che non gli ricordava Michela, ma Napoli e la sua vita di soldato. Sul mare luccica l'astro d'argento, placida è l'onda, prospero il vento. Nemmeno le murate erano diverse dal maggio del 98. Le medesime celle e i medesimi insetti che ti divorano, e il buriolo e l'afa da non respirare, l'umidità, il gelo non appena viene l'autunno. Ma nel camerone dove li avevano riuniti, conclusi gli interrogatori, c'erano degli amici adesso, dei compagni di idee e di lavoro, ci si intendeva. Oltre a Giannotto c'era Corsiero, che era stato il suo primo maestro nel mestiere, e che ora gli insegnava, teoricamente, mancandogli le carte, i giochi di prestigio, e giorno per giorno gli raccontava i tre moschettieri. Quest'uomo di 50 anni aveva gli entusiasmi di un bambino. C'era Friani, l'anarchico, con il quale non era mai andato molto d'accordo, ma che al solito, se incominciava a parlare, li lasciava a bocca spalancata. Allora ciò che egli sapeva della comune, anche agli anziani, riusciva come nuovo. Là, socialisti e anarchici erano stati una cosa sola, tutti finiti allo stesso muro. E loro dei gruppi dei 21, tanti quanti erano, e già 2 ne mancavano all'appello, nessuno che si dimostrasse scoraggiato, che non tornerebbe a fare le stesse cose. Avevano difeso se stessi e gli altri, in una lotta per un po' di pane. E perché il lavoro, se non secondo il sudore, gli venisse compensato nella misura minima della ragione. Non gli pareva d'avere sbagliato. La morte del tedesco non pesava sulla loro coscienza, semmai l'esaltava. Ora che si trovavano carcerati, le famiglie non erano abbandonate. Ogni settimana, dalla camera del lavoro, dalle mutuo soccorso, dalle leghe, gli portavano degli aiuti, una miscea. Ma in ogni famiglia c'erano donne che non si lasciavano abbattere. Gli bastava a codeste madri e spose la promessa fatta con persuasione che una volta liberi, prima di compromettersi di nuovo, doveva nevicare d'agosto, seccarsi il mare, lo spiombi diventare un corazziere. Pescetti aveva riunito un collegio d'eccezione. Se si fosse celebrato il processo, sarebbe sceso in campo anche Turati, come aveva parlato per quelli dei fasci siciliani 8 anni prima e 4 anni fa, se la trovati in mezzo ai moti, avrebbe difeso loro, a costo di tornare lui stesso in galera, e ne è riuscito da poco. Parlava difficile, non alla buona come Pescetti o come Bastiano, ma si finiva per capirle come. Giannotto ricordava un passo del suo discorso dopo la condanna di Barbato, che pressa poco diceva «la borghesia ha lanciato la sua sfida». L'ha gettata agli oppressi che gemono, l'ha gettata agli organizzatori che tentano sottrarli agli impeti incomposti per scortarli lungo le vie della saggezza verso una nuova civiltà. Questa sfida pensino a raccoglierla quelli a cui è diretta, che se i lavoratori d'Italia firmano con la loro accidia la sentenza che condanna Barbato e compagni, essi, con quella condanna, avranno firmato la propria. Nessuna gente sarà mai stata nella storia più supina e più vile. paese vuol dire non essere soli, avere gli amici, del vino un caffè. Io sono della città, riconosco le strade dalle buche rimaste, dalle case sparite, dalle cose sepolte che appartengono a me. Da fuori, Metelle e i suoi compagni ricevevano lettere, rispondevano. Ogni mese gli era concesso mezz'ora di parlatorio. A sera, come dei militari consegnati, mettevano insieme le notizie, belle o brutte, e le malignità, le deduzioni. Sui cantieri la vita era tranquilla, coi soliti imprenditori, i soliti assistenti e i soliti caporali. Non tutti dei boia, in definitiva. Tra Badolati e Maddii una differenza c'era, come tra Crispi e Nardini. Il sabato le paghe erano aumentate di 6 soldi e di 1 ventino. Le ferite del Pomero, di Duili, del Santino avevano lasciato delle cicatrici che si vedevano appena. Anche Aminta era guarito ed aveva potuto finalmente metter su casa e riunire la famiglia. Qualcuno gli aveva dato una mano. Forse c'entrava quell'ortolano presso il quale ultimamente sua moglie aveva lavorato. La vedova del decano gli era sopravvissuta di 1 mese. E la tedesca, lei non avendo un aggancio, nulla, era tornata in Germania, a Lipsia, dove suo fratello l'ospitava. Avrebbe ripreso a fare la cameriera in una birreria, magari quella stessa dove Butori l'aveva conosciuta. Così era finito il suo viaggio in Italia. Badolati le aveva pagati il biglietto del treno, per lei e per la bambina, Lotte, che aveva i capelli quasi bianchi, come una vecchia, e diceva «ja», «sì» o «bit», «scusi». Olindo, infine, da un po' di tempo mancava sul lavoro. Quei manovali di Contea e di Londa, che rientravano in famiglia una volta alla settimana, dicevano che era in un fondo di letto bianco come la cera. Ma di questo, per timore di dispiacere a Metello, non ne parlavano mai nel camerone. Piuttosto, dopo che Giannotto ci aveva alluso, un po' tutti lo tormentavano chiedendogli come era andata a finire la sua relazione con la Bellidina. Un rospo simile Annita non l'avrebbe digerito tanta alla leggera. Forse che Ersilia gli voleva meno bene di quanto non ne volesse Annita a suo marito? Era più intelligente, Metello si diceva, era più moderna e sapeva capire. Ora, dopo aver ogni volta anticipato col pensiero il giorno che egli verrebbe liberato, piuttosto che dei sentimenti, si partecipavano dei fatti. Si scrivevano di libero, dei fiori, dei coniugi lombardi che appena di ritorno dal mare avevano sgomberato e dei nuovi pigionali. Una famiglia in cui non ci sono sposine, gli scriveva Ersilia. Ella lo vedeva una volta al mese in parlatorio e ogni giorno, come 4 anni prima, gli portava il pranzo dentro il tovagliolo legato per le cocche. C'era adesso abbastanza sale sulla scaloppa e nel minestrone. «Fammi più spesso quello di fagioli», egli le diceva, «e mettici la pasta tagliata corta, sai le chioccioline?» «Piano, cavaliere», ella gli rispondeva, «qui non si naviga nell'oro, è una stagione morta per i fiori. Adelaide Roini mi dà, sì, delle ordinazioni, ma non come d'estate. I pranzi che ti portava a luglio, ora a settembre, non te li posso più portare. E la signora Lorena ci ha chiuso il borsellino, tanto a me che ad Annita. Giannotto lo deve già sapere, domandaglielo e sentirai». Anche egli la informava dei suoi pensieri, e ciò che le taceva, siccome le sue lettere andavano listate, le allusioni e i giochi di parole, ella non faticava a spiegarseli. «Non avrei mai immaginato di tornare così presto tra queste mura. Ma ora è molto diverso da 4 anni fa. Sono io diverso, ossia, sono anch'io la medesima persona, ma ho qualche anno in più. Sono innocente come allora, ma mi sento più sicuro. Quando rispondo al giudice, la mia innocenza, gliela so spiegare. Peccato tu non abbia studiato, mi ha detto nell'ultimo interrogatorio. Ho studiato su ponti, gli ho risposto. Sapesse quanto ci si impara. È la verità. Mettere un mattone sopra l'altro, calibrato, pareggiare la calcina, dardi intonaco, stuccare, sembra facile, provaci. Diventa facile quando si incomincia a capirne il modo, come in tutte le cose. E qui siamo tra amici e tra muratori. Se uno non è aggiornato, gli si spiega. Ma i miei pensieri più belli, le scrisse quel settembre, riguardano te e li tengo segreti. Sono passati 5 anni. Se nel frattempo ho fatto centro su qualcosa, è perché c'eri te. Tu conosci il tuo mestiere e io il mio. Ella gli rispose, «So fare i fiori, so fare la treccia. Volendo, saprei anche mettere in prova un vestito, ma non gli do troppa importanza, se no mi ci sperdo. Io ambirei viver tranquilla, tu libero ed io. Magari anche un altro figlio se dovesse venire. Mi basterebbe un pezzo di pane e un gocciolo di vino, ma so che non è possibile. Perciò ti do ragione. Però te l'ho detto un'altra volta, tu non mi devi spaventare. E quando mi scrivi, non mi trattare come una fidanzata. Non vorrei che dipendesse dal fatto che ti trovi rinchiuso tra codeste mura. Succede, vedi, che io non sono brava a contraccambiare. Sto qui da un'ora a mordere il cannuccio della penna. Se ti scrivessi, metello mio, come t'amo, mi sembrerebbe di pigliare in giro te e di pigliarmi in giro. Ho chiesto aiuto al libero. Il babbo vorrebbe delle paroline. Che gli scriviamo? Sai cosa mi ha risposto? Polta Lallo. Sogna sempre il cavallo a dondolo. Gliel'aveva promesso quella persona. Bisognerà proprio accontentarlo per la Befana. Ci mancano ancora più di 2 mesi. Tu sarai tornato. Pescetti l'altra sera ci giurava e anche del buono. Tutti sono di questo parere. Andremo insieme a comprarglielo. La vigilia, il 5 gennaio. Ti dice nulla questa data? Che sono passati quasi 3 anni e mi sembra ieri, Ersilia. Ora mi accorgo di non aver mantenuto la promessa che ti feci entrando nel caffè di Piazza Piattellina. È che più ti tiri indietro, più c'è qualcosa che ti riporti in prima linea. Ma d'ora in avanti, ti prometto, ti... Lo so, tu non vuoi che giuri. Verso la fine di settembre, Olindo mandò sue notizie attraverso un'infermiera che conosceva Ersilia. «È all'ospedale», ella scrisse a Metello. «Gli è scoppiata l'etisia. Valla a trovare, portagli qualcosa. Digli che né io né nessuno di quelli che sono qui cobiamo del rancore. Ha agito secondo il suo carattere. Ci sono tornata ieri, c'ero già stata. Avevo taciuto per vedere come la pigliavi. È ridotto male, povero Olindo. A stargli mezz'ora vicino schianti il cuore». Parla di te come d'un padre eterno. Debbo essere proprio io a fargli la tara. A voce, in parlatorio, gli disse, non te l'ho scritto perché poteva capitare che la lettera andasse in mano ai tuoi compagni, ma Olindo non è rassegnata affatto. Dà la colpa a quelli che lo picchiarono di avergli spaccato i polmoni. Non è vero, lo so. Era di già malato quando tornò dal Belgio, ma certo, quelle botte non gli dovettero giovare. Comunque è avvelenato. Forse ce l'ha anche con te. Davanti a me non fa che dire Metello, Metello, ma poi dietro chissà. Ora ho da riferirti una cattiva notizia. Me l'ha dato Lin, è naturale. Là in Belgio, il 10 agosto, è morta mamma Isolina. Nel giorno e nella notte di poi, egli non riuscì a parlare con i suoi compagni né a dormire. Solo, nel buio e nel tanfo del camerone, gli si inumidirono gli occhi, più che se fosse morta sua madre. Era stata mamma Isolina la sua vera madre. E per contrasto, non pensava di essere né ingiusto né crudele, sentì accrescersi la sua avversione per Olindo. Lo avrebbe voluto saper guarito, possibilmente, ma lontano, non rivederlo mai. Dopo aver cercato di spiegarle il proprio stato d'animo, questo mi ha fatto ricordare il passato, scrisse ad Ersilia. Confusamente, le partecipava il suo sgomento e insieme la sua forza morale. Da quando ero bambino e incominciava a capire, fino ad oggi, qui dove mi trovo, le persone che più mi hanno giovato e con le quali speravo di fare un lungo pezzo di strada, ora questo, ora quello, mi sono scappate davanti agli occhi senza sapere come. Non dico soltanto i genitori che non ho conosciuto, e non soltanto mamma Isolina, ma Betto, e poi Pestelli, e poi tuo padre, e il Chellini, che morì a Porto Longone, dicono di polmonite, comunque anche lui solo come un cane. Che aiuto gli ho potuto dare? Nessuno. Cosa ho creduto di imparare? A non espormi, a non conoscere nemmeno di vista la prigione, e ci son finito 2 volte dritto come un fuso. Perciò ho stabilito, concludeva, che il passato bisogna scordarselo. Ce lo portiamo dietro, ma non ci deve pesare. I morti, che ci hanno fatto del bene, si ricompensano guardando in faccia i vivi. Ci si dovrebbe semmai più ricordare dei loro sbagli che delle loro cose indovinate. È coi vivi che siamo alle prese. E con loro ti deve esporre per forza. Primo, ultimo, ci troviamo tutti sulla stessa barricata. Poi le scrisse, ma a volte fa certi scherzi la memoria. Ricordi cose di 20 anni fa e non riesci a mettere insieme quelle che ti sono capitate ieri. Oppure crolla una casa e tu rammenti quei passerotti che sono volati via. Tutta la mia vita è venuta a far massa durante il mese e mezzo dello sciopero, fino all'ultimo giorno sciagurato. E dico desto ultimo giorno, la circostanza che più mi balza all'occhio è la meno importante. Anzi, non c'entra proprio. È la donna che incontrai in piazza dell'Annunziata, mentre mi dirigeva alla fortezza. Lei doveva aver lasciato una creatura alla ruota. Non la vidi nemmeno. La sentii soltanto scappare e dire «Addio, Mimmino!» Ma il rumore di quei tacchi e quelle parole mi stanno conficcati in testa più degli spazi, più della ferita del tedesco, più di come era ridotto il decano cascato a testa in giù, più degli occhi del piccolo Renzoni. C'è una spiegazione? Non c'è. C'è, ella gli rispose. Sono i casi della vita, e tu hai 30 anni e sei d'animo buono. Ma c'entra anche la tua vanità, non dubitare. Al momento opportuno sei capace non di far del male, no, ma di essere egoista e spensierato, e come? Qualche settimana più tardi, il giorno d'ogni santi, spalanca gli occhi, ella gli scrisse. Stamma a sentire. Stamani facevi il bagno al libero, quando ha suonato il postino. C'era una lettera, veniva di città, ma non era detto chi spediva, ed era indirizzata a te, col tuo nome, la strada e il numero precisi. Una calligrafia tutta sdraiata, di persona istruita. Dapprima ho pensato a lei, all'esosa, che mi volesse fare un dispetto. Poi mi sono ricordata di quando per le feste ci mandava cartoline d'auguri da piano a piano, che carina. Scriveva peggio di me, non poteva essere lei. Ma non ti voglio far stare con l'animo sospeso più di quanto non sono rimasta io con quella busta in mano. Alla fine l'ho aperta e ci ho trovato dentro 100 lire. Codesto foglio d'accento e non un rigo, nulla. Avranno voluto scherzare. Può esistere gente tanto infame. Ora esco, vado dal fornaio, anche se il biglietto è falso non mi denuncerà. Sono buone, Metello. Sono 100 lire di quelle vere. Ho pagato il debito col fornaio. Per il resto, come mi devo comportare? Non abbiamo mai fatto nessuna buona azione che meritasse una riconoscenza di questo genere. E poi, perché così coperta? Esistono i maghi? Esistono le fate? Illuminami tu. Sulla busta c'era il tuo nome. Non lo so, Ersilia, nemmeno io mi so capacitare. Si vede che a questo mondo c'è più bontà di quello che si crede. Non ti labbiccare il cervello, piglia coteste 100 lire come un regalo delle fate, d'un uomo buono, d'una befana anticipata. Lo considero un prestito, ella gli rispose, da qualunque parte venga. Ho pagato i debiti più urgenti, la rata della strozzina, il calzolaio, ho dato una spinta ad Annita, mi sono rimaste 20 lire. Domani Adelaide mi saldi il lavoro d'una settimana. Siamo ricchi, Metello. Quando torni potrai farti un pastrano, grazie a quel mago o a quella fata. Già si appannavano i vetri alle finestre. A sera calava la nebbia dalle colline. Ella si recò a trovarli in parlatorio. E questa volta non li poté più nascondere di aspettare un bambino. Te lo dicevo che di questo sciopero ce ne saremmo ricordati. Sono entrata nel 6° mese. Non te l'avevo fatto sapere perché tu stessi più tranquillo. È una buona gravidanza, ti assicuro. Anche battere in mazzuolo non mi costa fatica. Non mi sei nemmeno mai gonfiata la noce del piede. Egli non seppe fare altro che prenderle le mani e baciarla sulla gota. «Come lo chiameremo?» le scrisse poi. «Col nome di Betto o col nome di tuo padre?» Chissà perché non ci si pose questo pensiero quando si trattò di dare un nome al Libero. Non ci si pensò perché ci trovammo subito d'accordo. Libero era un nome che pareva un programma, te ne sei scordato? Ora per questo nuovo, quinto Betto, come vorrai? Forse Betto è anche meglio. Ma se invece è una bambina? Per una bambina, sempre che a te non dispiacesse, un bel nome potrebbe essere Viola. Perché mi dovrebbe dispiacere? Anzi, ciò ti ho già fatto l'orecchio. Se i segni che dicono son veri, si tratterà proprio di una bambina. E poi, non eri il nome di quella maestra che conoscesti tanti anni fa, quando ancora avevi da fare il soldato? Sì, ma non ci mettere dell'ironia. Non l'ho più rivista. Oggi avrà passati 50 anni. Ho riflettuto e mi son detto che i maghi esistono. Esistono le fate, ma si tratta sempre di persone. Non può essere stata che lei a mandarci quei quattrini. Ed andarla a cercare per ringraziarla, dal momento che lei ha voluto restare nel passato, non mi sembra sia il caso. Non ti parrebbe una gratitudine un po' fuori dall'ordinario? Ella gli chiese. Comunque ne riparleremo se sarà davvero una bambina. Gli scriveva ora che suo fratello era venuto in licenza, che avevano fatto un pranzo a casa della madre, in San Frediano, che Libero era sempre più innamorato della piccola Iole, uno splendore di biondo, va di già a scuola. Era il 12 dicembre del 1902. L'indomani li avrebbero liberati, da un'ora all'altra, senza preavviso, per evitare che all'uscita del carcere si organizzassero delle manifestazioni. 19, quanti erano, 4 o 6 per volta, si abbracciarono e si strinsero le mani. Domattina ci si ritrova sui cantieri, ci sarà lavoro? Ce lo daranno, speriamo, da Badolati forse di sicuro, e da Madì, da Taiuti, si tratterà di vedere. Buonanotte figlioli, anche questa è passata, buonanotte, disse Corsiero, poteva andar peggio, buonanotte, a domani, buona. Erano le 5 di sera, i lampioni erano già accesi, la nebbia sembrava fasciare la città nel giro delle colline e arrestarsi all'altezza dei viali. Sopra le vie, le piazze, il carcere, le case, il cielo era pulito e compatto, con tutte le stelle e 3/4 di luna. Giannotto, uscito coi primi, dette una voce a Ersilia passando da via dell'Olivo, poco lontano dalle murate, e sulla strada per raggiungere Lungarni e San Frediano. Quando Metello varcò il portone, lei stava sul marciapiede di rimpetto, col bambino in braccio, e i capelli belli, pettinati, uno scialle rosa sulle spalle, il ventre di 7 mesi che la sformava e non di meno la inleggiadriva in qualche modo. Egli baciò Libero sulla guancia, baciò lei, le tolse il bambino, e lei lo prese a braccetto. Percorsero in silenzio tutta via Ghibellina, ed entrarono nel caffè del Canto alle Rondini. Lei prese un corretto, lui una grappa. Lei cavò di tasca un savoiardo e lo mise in mano al bambino. Senza volere, erano venute a trovarsi di fronte al grande specchio incorniciato d'oro di una réclame, e si sorrisero. «La Sacra Famiglia!» egli disse. «Su!» ella disse. «Non bestemmiare!» «Ma d'ora in avanti cosa?» «Un giorno per chi lotta con coraggio, è il nostro giorno, è il 1° maggio!» Un garofano è spuntato d'un sol colpo fra le dita, ma sicuro che sbadato, oggi è maggio e ci invita ad unirci fino a sera per la nostra primavera. Forza amici, in allegria, questa nostra festa sia. Un giorno per chi vive nel lavoro, un giorno per chi spera nel futuro, un giorno per chi lotta con coraggio, è il nostro giorno, è il 1° maggio. Un giorno per chi lotta con coraggio, è il nostro giorno, è il 1° maggio. Via di corsa, tutti in piazza, tutti fuori ad applaudire, c'è persino la mia ragazza sotto il sol dell'avvenire. Le officine oggi son vuote, dorme il tram nel capannone, rosso maggio, le tue note della strada son padrone. Un giorno per chi vive nel lavoro, un giorno per chi spera nel futuro, un giorno per chi lotta con coraggio, è il nostro giorno, è il 1° maggio. Un giorno per chi lotta con coraggio, è il nostro giorno, è il 1° maggio. Questo giorno è tutti i giorni, tutto l'anno vi era chiuso, 1° maggio tu ritorni a dar forza a chi è deluso. Questa festa è una gran festa, non ce l'hanno regalata, solleviamo alta la testa, noi l'abbiamo conquistata. Per chi vive nel lavoro, un giorno per chi spera nel futuro, un giorno per chi lotta con coraggio, è il nostro giorno, è il 1° maggio. Un giorno per chi lotta con coraggio, è il nostro giorno, è il 1° maggio. Un giorno per chi lotta con coraggio, è il nostro giorno. giorno.